Yeah. Inedito. A volte se brucia il culo, meglio usare per YouTube pasta di Fissan. Ogni volta che mi dai dello spacciato, e ogni volta che aggiorni il tuo stato, pasta di Fissan, zio, sollievo immediato. Pasta di Fissan, zio, sollievo immediato. Ogni volta che mi dai dello spacciato, e ogni volta che aggiorni il tuo stato, pasta di Fissan, zio, sollievo immediato. Pasta di Fissan, zio, sollievo immediato. Quando il culo brucia la bocca sparla, che è difficile fermarla, cuciti le labbra, non parlare male di me. Mi conosci poco, io so fin troppo di te. Per lavarti la coscienza non basta una doccia. Prima di dire OBR sciacquati la bocca. Parli di underground, ma tu che cazzo ne sai? Mio padre è underground, senza fare freestyle. Puffi sulla schiena di una vita intera. Casini su casini, non è mai stato in galera. Cazzo pensi scemo, non mi sono mica offeso. Ho così tanta merda addosso da non sentirne più il peso. Se scrivi cazzate su Face non sei un duro. Ti senti underground, vai a taggare un muro. Per quelli come te, zio, rimedio sicuro. Pasta di Fissan contro i bruciori di culo. Ogni volta che mi dai dello spacciato, e ogni volta che aggiorni il tuo stato, pasta di Fissan, zio, sollievo immediato. Pasta di Fissan, zio, sollievo immediato. Ogni volta che mi dai dello spacciato, e ogni volta che aggiorni il tuo stato, pasta di Fissan, zio, sollievo immediato. Pasta di Fissan, zio, sollievo immediato.